È un'opera che va presa sul serio. In questo momento su Bologna e sull'Emilia-Romagna Autostrade sta investendo circa un terzo del piano investimenti nazionale. Significa che fra 5 anni, quando queste opere saranno ultimate, noi avremo una Bologna e un'Emilia-Romagna con più infrastrutture, più tecnologia, più capacità di affrontare quelle che sono le criticità storiche che come collo di bottiglia abbiamo in questa parte di paese, e soprattutto significa che qui non c'è soltanto Autostrade che sta facendo una bretella o un raccordo per dare soddisfazione a un comune o quell'altro, che come partner potrebbe in qualche modo mollare le comunità. Qui siamo di fronte ad un'opera di interesse pubblico per il paese, un insieme di opere di interesse pubblico per il paese che, se non vengono realizzate, è un problema per Autostrade e per il paese, non di certo solo per la nostra comunità. Quello che noi chiediamo è che con questi interventi si anticipino le opere verdi, le mitigazioni, che, come ci siamo detti anche dopo la campagna elettorale, con gli accordi presi nella conferenza dei servizi, tutto ciò che la nostra comunità ha chiesto, cioè che questo passante insieme alle altre opere serva a ridurre le emissioni della nostra città, serva a dare risposta a quelle domande inevase da tanti anni sulla sicurezza, il calo degli incidenti, vengano assolutamente prese sul serio e si portino avanti. Oggi qui Autostrade è venuta a dire che questo impegno c'è, che le risorse verranno messe in campo e quindi noi siamo pronti per partire. Una notizia che abbiamo scoperto oggi, credo tutti, è che non ci sarà riduzione delle corsie durante i lavori. Chiaro che Bologna nei prossimi anni sarà attraversata da molti cantieri. Quello che è il nostro impegno è fare in modo che questi cantieri inficino il meno possibile il negativo alla vita delle imprese e dei cittadini. Una cosa che avevamo chiesto era appunto che i cantieri del passante, di nuova generazione, impattassero il meno possibile. Questo significa poter fare i lavori, ad esempio, senza interrompere il flusso di traffico sulla tangenziale dell'autostrada, e questo verrà fatto. Quell'anno che ci separerà con la partenza dei cantieri sarà l'anno dell'osservatorio ambientale, dell'installazione delle centraline, di tutte quelle rilevazioni che servono a valutare gli impatti sulla città e sulla comunità. Quindi su questo è uno degli impegni che ci eravamo assunti, e porteremo avanti le cose che ci eravamo impegnati a fare nel programma e nella conferenza dei servizi. Abbiamo da parte di Autostrade un'apertura su questo, disponibilità a lavorare insieme. Fino ad ora il Ministero è stato molto presente e gioca un ruolo politico importante, quindi quello che ci aspettiamo è che anche il prossimo governo mantenga questo tipo di impegno, perché le mitigazioni e gli interventi che devono essere fatti partono da un presupposto, che oggi l'autostrada già esiste, che l'autostrada già da anni crea problemi alle persone, perché chiaramente un'autostrada che attraversa una città è un fatto davanti agli occhi di tutti, e quindi l'obiettivo è rendere questo passaggio autostradale meno inquinante, meno impattante sulla popolazione e con meno incidenti stradali. Sindaco, sulle mitigazioni ci sono dei tempi? Allora, noi chiediamo che tutto ciò che sia previsto nella prima fase venga anticipato il prima possibile. Stiamo lavorando con Autostrade perché questo avvenga. Ci saranno alcuni interventi, come la parte, diciamo, di piantumazione delle aree verdi e la parte di forestazione, che può essere tranquillamente anticipata. Noi metteremo a disposizione le aree, interventi più infrastrutturali che richiederanno più tempo. Vogliamo anche accelerare sulla fase 2, come sapete, era un'altra parte della proposta del passante di nuova generazione. Anche su questo stiamo andando avanti spediti. La vera novità è che noi abbiamo aperto in questi giorni una cabina di regia sul passante di nuova generazione, con il coinvolgimento di Autostrade, una cabina di regia che guido io come sindaco metropolitano insieme a Valentino Rioli, gemella della cabina di regia sul tram. Quindi nel caso del tram coinvolgiamo tutte le aziende coinvolte nell'appalto, nel caso di Autostrade abbiamo appunto Autostrade. Questo terrà insieme anche tutti gli interventi sui sottoservizi e i tanti piccoli cantieri che accompagneranno il passante, perché il passante incrocia tante strade e avrà bisogno di interventi anche che predisporranno la città a questo cantiere. Quindi noi dobbiamo tenere da oggi insieme tutto questo programma e lavorare da un lato su far sì che ci siano le mitigazioni, dall'altro che il passante di nuova generazione vada avanti come cantiere e si possa aprire nei tempi previsti, che ci siano le rassicurazioni sui temi della salute e dell'impatto ambientale prima e non dopo, e poi chiaramente la parte che ci interessa altrettanto, che sono contenere i disagi. Quindi questa cabina di regia avrà anche il compito, come per il tram, di affrontare con il mondo dell'economia e i quartieri tutto ciò che è la gestione del disagio di un cantiere. Quindi vuol dire, nel caso del tram, gli indennizzi per ovviamente i commercianti che si troveranno in difficoltà durante i cantieri, e nel caso del passante vorrà dire avere un contatto costante con le comunità che si troveranno coinvolte nei cantieri.